Capitolo 8. Per Sir James Chatham aveva dello stupefacente quanto continuasse a piacergli recarsi alla Grange, dopo aver affrontato la difficoltà di vedere Dorothea per la prima volta nelle vesti di una donna fidanzata con un altro uomo. Naturalmente gli parve di essere trapassato da un lampo biforcuto quando le si avvicinò per la prima volta e per tutta la durata del colloquio fu consapevole di celare un disagio, ma buono com'era, bisogna riconoscere che il suo senso di disagio sarebbe stato maggiore se avesse considerato il rivale un partito brillante e desiderabile. Non ebbe la sensazione di venire clissato da Mr. Casaubon. Lo scandalizzò solo il fatto che Dorothea fosse vittima di un malinconico abbaglio e la sua mortificazione perse un po' della propria amarezza mescolandosi alla compassione. Eppure, mentre Sir James si diceva di essersi completamente rassegnato alla sua perdita, poiché con la perversità di una Desdemona non si era lasciata convincere dalla proposta di un'unione chiaramente adatta a lei e secondo natura, tuttavia non riusciva a sopportare del tutto passivamente l'idea del suo fidanzamento con Mr. Casaubon. Il giorno in cui li vide per la prima volta assieme, alla luce di ciò che adesso sapeva, gli parve di non aver preso la faccenda abbastanza sul serio. Brooke era davvero colpevole, avrebbe dovuto opporsi al fidanzamento. Chi poteva parlargli? Forse si poteva fare ancora qualcosa, perlomeno rimandare il matrimonio. Mentre stava facendo il ritorno a casa, passò dal rettorato e chiese di Mr. Cadwallader. Fortuna volle che il pastore fosse in casa e il suo visitatore fu fatto entrare nello studio, dove era appesa tutta l'attrezzatura da pesca. Ma lui era in una stanzetta attigua, al lavoro sul suo mulinello, e diede una voce al baronetto perché lo raggiungesse di là. I due erano amici più di qualsiasi altro proprietario terriero ed ecclesiastico della contea. Fatto significativo che concordava con l'espressione amabile dei loro volti. Mr. Cadwallader era un uomo dalla corporatura massiccia, con labbra carnose e un sorriso dolce, assai comune e rozzo esteriormente, ma dotato di quella solida e imperturbabile serenità e di quel buon umore che sono contagiosi e come grandi colline erbose sotto i raggi del sole leniscono persino un egoismo irritato e lo fanno vergognare di sé. «Ehi, come state?» disse, porgendogli una mano, non proprio fatta per stringerla. Mi spiace di non avervi visto prima. C'è qualcosa di particolare che non va. Date l'impressione di essere irritato. Sulla fronte di Sir James c'era una piccola increspatura, una lieve depressione, che egli parve esagerare di proposito mentre rispondeva. È solo la condotta di Brooke. Penso davvero che qualcuno dovrebbe parlargli. Cosa? La sua intenzione di presentarsi candidato? Fece Mr. Cadwallader, continuando a mettere a posto gli ingranaggi del mulinello che faceva girare. Non penso proprio che faccia sul serio. Ma che male c'è se gli piace? Chiunque contrario ai principi Whig dovrebbe essere contento quando loro non propongono la candidatura del più forte. Non rovesceranno la Costituzione adoperando come ariete la testa del nostro amico Brooke. Oh. Non volevo alludere a questo, disse Sir James, il quale, dopo aver posato il cappello ed essersi lasciato cadere in una poltrona, aveva cominciato a carezzarsi la gamba ed esaminare la suola dello stivale con grande amarezza. Intendo questo matrimonio. Intendo il fatto che egli permetta a quella florida ragazza di sposare Casaubon. Cos'ha Casaubon? Non ci vedo niente di male se lui piace alla ragazza. Lei è troppo giovane per sapere cosa le piace. Il suo tutore dovrebbe intervenire. Non dovrebbe permettere che la cosa avvenga così precipitosamente. Mi meraviglio che uno come voi, Cadwallader, un uomo con delle figlie, possa assistere alla faccenda con indifferenza e con un cuore come il vostro. Pensateci seriamente. Non sto scherzando, parlo il più seriamente possibile, disse il pastore con una provocante risatina in cuore. Voi siete cattivo, come Elinor. È da un po' che vuole che vada a fare una ramanzina a Brooke. E io le ho ricordato che i suoi parenti avevano un'opinione assai brutta del matrimonio che faceva quando mi sposò. Ma guardate Casaubon, disse Sir James con aria indignata, deve avere 50 anni e non credo che sia mai potuto essere molto di più dell'ombra di un uomo. Guardate che gambe ha. Al diavolo, voi bei giovanotti, credete di avere tutto a vostro modo nel mondo. Non capite le donne, loro non vi ammirano la metà di quanto vi ammirate da soli. Elinor era solita dire alle sorelle che mi sposava per la mia bruttezza. Era così diversa e divertente che aveva conquistato la sua saggezza. Voi! Era abbastanza facile per una donna amarvi. Ma questa non è questione di bellezza. A me Kesabo non piace. Questa era la maniera più forte di sottintendere che pensava male del carattere di un uomo. Perché? Cosa sapete di disonorevole su di lui? Chiese il pastore, posando le rotelle e infilandosi i pollici nel giro delle maniche con aria attenta. Sir James tacque. Di solito non gli era facile esprimere le proprie ragioni. Gli sembrava strano che la gente non le conoscesse senza bisogno che gliele spiegasse, dato che lui sentiva solo ciò che era ragionevole. Infine disse: Ora ditemi, Cadwallader, ha un cuore? Beh, sì, non voglio dire di quelli che si inteneriscono, ma un sano nucleo, di questo potete star certo. È molto buono con i suoi parenti poveri, passa una pensione a diverse delle donne e spende un bel po' per mandare a scuola un giovanotto. Kesabo si comporta in conformità al suo senso di giustizia. La sorella di sua madre fece un cattivo matrimonio, un polacco, credo, perse la testa, ad ogni modo fu ripudiata dalla famiglia. Se non fosse stato per questo, Kesabo non avrebbe avuto nemmeno la metà dei soldi che possiede. Credo che lui stesso sia andato a cercare i propri cugini per vedere cosa poteva fare per loro. Non tutti gli uomini darebbero un suono così puro se saggiaste il loro metallo. Voi sì, Cetta, ma non tutti. Non so, disse Sir James arrossendo. Non sono così certo di me. Si interruppe per un momento e poi aggiunse: È stata una cosa giusta quella che ha fatto Kesabo. Ma uno può voler fare ciò che è giusto e tuttavia essere una specie di codice incartapecorito. Può darsi che una donna non sia felice assieme a lui, e credo che quando una ragazza è giovane come Miss Brooke. I suoi amici dovrebbero intromettersi un po' per impedirle di commettere una qualsiasi sciocchezza. Voi ridete, perché immaginate che ci sia di mezzo qualche mio sentimento personale. Ma sul mio onore non è questo. La penserei allo stesso modo se fosse il fratello o lo zio di Miss Brooke. Bene, ma cosa fareste? Direi che non si possono prendere decisioni sul matrimonio fino a quando lei non sarà maggiorenne. E credetemi, in questo caso non si farebbe mai. Vorrei che vedeste la cosa come me. Vorrei che ne parlaste con Brooke. Sir James si alzò mentre finiva di pronunciare la frase, perché vide Mrs. Cadwallader entrare dallo studio. Teneva per mano la figlia più piccola, di circa 5 anni, la quale corse subito verso il babbo che la mise a proprio agio sul ginocchio. Sento di cosa state parlando, disse la moglie, ma non farete impressione a Humphrey. Finché i pesci abboccano alla sua esca. Tutti sono ciò che dovrebbero essere. Dio mio, Kesebo è un torrente di trote e non si cura di pescarci. Potrebbe esserci un uomo migliore. Beh, c'è qualcosa di vero in quello che dite, fece il pastore con la sua tranquilla risata interiore. È un'ottima qualità per un uomo avere un torrente di trote. Ma seriamente, disse Sir James, la cui irritazione non si era ancora placata, non pensate che il pastore potrebbe ottenere qualche buon risultato se parlasse? Oh, ve l'ho già riferito prima quello che avrebbe detto, rispose Mrs. Cadwallader inarcando le sopracciglia. Io ho fatto quel che potevo, di questo matrimonio me ne lavo le mani. In primo luogo, fece il pastore con aspetto piuttosto grave, sarebbe assurdo aspettarsi che riuscissi a convincere Brooke e a indurla ad agire di conseguenza. Brooke è un buon uomo, ma smidollato. Potete metterlo in qualsiasi stampo, ma non manterrà la forma. Potrebbe mantenerla abbastanza a lungo da rimandare il matrimonio. Disse Sir James. Ma, mio caro Chetham, perché dovrei ricorrere alla mia influenza per far del male a Kesabo? A meno che non fossi molto più certo di quanto lo sono che agirei per il bene di Miss Brooke. Che io sappia, Kesabo non ha fatto niente di male. Io non mi curo del suo Xisutrus, dei suoi orchi e del resto, e lui non si cura della mia attrezzatura da pesca. Quanto alla posizione che ha preso sulla questione cattolica, è stata una sorpresa. Ma con me è sempre stato cortese e non vedo perché dovrei rovinargli il divertimento. Per quanto ne posso sapere, Miss Brooke potrebbe essere più felice con lui che con chiunque altro uomo. Humphrey, non vi sopporto. Lo sapete che preferireste cenare sotto la siepe piuttosto che solo con Kesabo? Non avete niente da dirvi? Cosa c'entra questo col fatto che Miss Brooke si sposa con lui? Lei non lo fa per far piacere a me. Non ha del buon sangue rosso in corpo, disse Sir James. No, qualcuno ne ha messo una goccia sotto una lente. Era tutto punti e virgole e parentesi, disse Mrs. Cadwallader. Perché non pubblica il suo libro invece di sposarsi? Disse Sir James, in preda a un disgusto che riteneva giustificato dai sani sentimenti di un laico inglese. Si sogna delle note a piè di pagina e queste corrono via con tutto il suo cervello. Dicono che quando era piccolo ha fatto un compendio di Policino e da allora ha continuato a fare i compendi. Uffa! E questo è l'uomo che Humphrey continua a dire potrebbe far felice una donna. Beh, è quello che piace a Miss Brooke, disse il pastore. Non pretendo di capire i gusti di ogni signorina. Ma se lei fosse vostra figlia, disse Sir James. Questa sarebbe una faccenda diversa. Lei non è mia figlia e non mi sento invitato a interferire. Casaubon è un brav'uomo, come la maggior parte di noi. È un prete dotto che fa onore alla veste. Un qualche radicale che faceva discorsi a Middlemarch ha detto che Casaubon era il beneficiario cavillatore e Frecky era il beneficiario muratore e io ero il beneficiario pescatore. E parola mia, non mi pare che uno sia migliore dell'altro. Il pastore concluse con la sua muta risata. Capiva sempre il sapore di qualsiasi satira che lo prendesse di mira. La sua coscienza era generosa e tranquilla, come il resto di lui. Faceva solo quello che poteva fare senza cacciarsi nei guai. Era chiaro che Mr. Cadwallader non si sarebbe intromesso nel matrimonio di Miss Brooke. E Sir James avvertì con una certa tristezza che essa avrebbe avuto la completa libertà di prendere un grosso granchio. Era un segno della sua buona indole il fatto che non venne meno al proposito di realizzare il progetto dei cottage di Dorothea. Senza dubbio, questa sua tenacia era la condotta migliore per la sua dignità, ma l'orgoglio ci aiuta soltanto a essere generosi, non ci rende mai tali, non più di quanto la vanità ci possa rendere spiritosi. Essa ora comprendeva a sufficienza la posizione di Sir James nei suoi riguardi, da apprezzare la rettitudine del suo perseverare nel dovere di un proprietario terriero, a cui in un primo tempo era stato spinto da una compiacenza sentimentale, e la soddisfazione che essa ne ricavò fu abbastanza grande da contare qualcosa persino nella sua attuale felicità. Forse dedicò ai cottage di Sir James tutto l'interesse che poteva sottrarre a Mr. Casaubon, o meglio, dalla sintonia di sogni pieni di speranza, di fiducia ammirata e di abnegazione appassionata che quel dotto signore aveva messo in moto nella sua anima. Quindi accadde che nel corso delle visite successive del buon baronetto, mentre questi cominciava a dedicare delle piccole attenzioni a Celia, egli si trovasse a parlare con Dorotea con sempre maggior piacere. Lei ora era perfettamente disinvolta e amichevole nei suoi riguardi e lui andava scoprendo gradualmente il piacere che dà la franca cortesia e la compagnia fra un uomo e una donna che non hanno alcuna passione da celare o da confessare. Capitolo 9. Mr. Brooke trovò assai soddisfacente il comportamento di Mr. Casaubon riguardo agli accordi da prendere e i preparativi del matrimonio si svolsero tranquillamente, abbreviando le settimane del corteggiamento. La promessa sposa doveva vedere la sua futura casa e richiedere qualsiasi cambiamento avrebbe voluto apportarvi. Una donna si impone prima del matrimonio perché possa in seguito sentirsi incline a sottomettersi. E certo, gli sbalzi che noi uomini e donne commettiamo quando vogliamo le cose a modo nostro potrebbero ben farci stupire del perché ci teniamo tanto. Una grigia ma asciutta mattina di novembre, Dorothea si recò in carrozza a Lowick, accompagnata dallo zio e da Celia. La dimora di Mr. Casaubon era la casa signorile. Lì vicino, visibile da qualche parte del giardino, c'era la chiesetta, con la vecchia canonica di fronte. All'inizio della carriera Mr. Casaubon aveva goduto solo del beneficio, ma con la morte del fratello era entrato in possesso anche della casa. Aveva un piccolo parco, con un bel esemplare antico di quercia qua e là, e un sentiero di tigli verso la facciata che dava sud-ovest, con uno steccato in rovina fra il parco e il giardino. Cosicché dalle finestre del salotto lo sguardo poteva spingersi, senza incontrare ostacoli, lungo un tappeto verde in pendenza, fin dove i tigli terminavano in una piana di grano e di pascoli che spesso sotto il sole calante sembravano fondersi in un lago. Questo era il lato allegro della casa, perché quelli meridionali orientali avevano un aspetto piuttosto malinconico, anche nel mattino più luminoso. Il terreno qui era più limitato, le aiuole apparivano poco curate e ampi ciuffi di alberi, soprattutto tenebrosi tassi, spiccavano molto alti, a neppure 10 metri dalle finestre. L'edificio di pietra verdastra era nell'antico stile inglese, non brutto, ma con finestre piccole e un aspetto malinconico. Il tipo di casa che deve avere dei bambini, molti fiori, le finestre spalancate e piccole vedute di cose dai colori vivaci che la facciano sembrare un luogo gioioso. In quegli ultimi giorni d'autunno, con qualche sparso residuo di foglie ingiallite che cadevano lente, trasversalmente ai sempreverdi scuri, in un'immobilità senza sole, anche la casa aveva un'aria di decadimento autunnale. E Mr. Casabo, quando apparve, non aveva un aspetto florido che potesse essere messo in rilievo da quello sfondo. «Oddio!» disse Celia. «Sono sicura che Freshit Hall avrebbe offerto uno spettacolo più piacevole di questo!» Pensò alla pietra bianca da taglio, al portico fiancheggiato di colonne e alla terrazza piena di fiori, a Sir James che sorrideva al di sopra di esse come un principe liberato da un incantesimo, che l'aveva rinchiuso in un cespuglio di rose, con un fazzoletto ricavato in un lampo per metamorfosi dai petali dal profumo più delicato. Sir James, che parlava così affabilmente, sempre di cose piene di buonsenso e non di erudizione. Ce le aveva quei delicati gusti femminili che gentiluomini, erudizione e logorati dalle intemperie talvolta preferiscono in una moglie. Ma per fortuna le preferenze di Mr. Casabo erano state diverse perché non avrebbe avuto alcuna speranza con Celia. Dorothea invece trovò la casa e il parco quanto di meglio potesse desiderare. Gli scaffali scuri nella lunga biblioteca, i tappeti e le tende dai colori sbiaditi dal tempo, le curiose mappe antiche, le vedute a volo d'uccello appese ai muri del corridoio, con un vaso antico sotto, qua e là, non le diedero alcun senso di oppressione e le parvero più allegri dei gessi dei quadri della Grange, che lo zio tempo fa si era portato a casa dai suoi viaggi, probabilmente simili ad alcune delle idee che aveva assorbito un tempo. Per la povera Dorothea, quelle severe nudità classiche e le imitazioni rinascimentali del Correggio, dai sorrisetti compiaciuti che scutavano le sue idee puritane, erano penosamente inspiegabili. Non le era mai stato insegnato in che modo metterli in un qualche genere di attinenza con la sua vita. Ma i proprietari di Lowick evidentemente non avevano viaggiato e gli studi del passato compiuti da Mr. Casabo non avevano bisogno di tali ausili. Dorothea si aggirò per la casa con un senso di deliziosa emozione. Le sembrava santificato. Questa doveva essere la dimora della sua vita di moglie e levò gli occhi pieni di fiducia verso Mr. Casabo quando questi attirò la sua attenzione soprattutto su alcuni arrangiamenti e le chiese se avesse voluto apportare cambiamenti. Ogni ricorso al suo sguardo lo accolse con gratitudine, ma non trovò nulla da alterare. Ella non trovò alcunché di manchevole negli sforzi di lui dimostrarsi puntigliosamente cortese e formalmente tenero. Essa colmò di perfezioni inespresse tutti i vuoti, interpretando la persona di lui come interpretava le opere della provvidenza e spiegando le apparenti discordanze con la propria incapacità di intendere le armonie superiori. E sono molti i vuoti che restano nelle settimane del corteggiamento che una fiducia amorosa colma di felice sicurezza. Ora, mia cara Dorothea, desidero che mi facciate l'onore di mostrarmi che stanza vi piacerebbe avere come boudoir, disse Mr. Casabo, dando a vedere che le sue conoscenze della natura femminile erano abbastanza ampie da comprendere quell'esigenza. È molto gentile da parte vostra pensare a questo, fece Dorothea, ma vi assicuro che preferirei che foste voi a decidere tutte queste cose per me. Sarò molto più felice se prenderò tutto com'è. Proprio come siete stato abituato ad averlo, come preferirete che sia, non ho alcun motivo per desiderare qualche altra cosa. Oh, Dodo, disse Celia, non vuoi prenderti la stanza con il bovindo al piano superiore? Mr. Casabo fece loro strada. Il bovindo dava sul viale dei tigli. L'arredamento era tutto di un blu sbiadito e c'erano miniature di dame e gentiluomini dai capelli incipriati, appese in gruppo. Un arazzo sopra una porta mostrava anch'essa un mondo verde-azzurro con un pallido cervo al centro. Le sedie e i tavoli avevano gambe sottili e sembravano facili da ribaltare. Era una stanza dove si sarebbe potuto immaginare il fantasma di una dama dal corpetto attillato che rivisitava il luogo in cui ricamava. Completava l'arredamento una leggera libreria che conteneva dei volumi di belle lettere in dodicesimo, rilegati in pelle. «Sì», disse Mr. Brooke, «questa diventerebbe una stanzetta carina con degli arazzi, dei sofà nuovi e roba di quel genere. È un po' spoglia ora». No, zio, disse Dorotea con vivacità, vi prego di non parlare di alcuna alterazione. Vi sono tante cose nel mondo che devono essere alterate. Mi piace prendere queste cose come sono. E a voi piacciono come sono, vero? Aggiunse guardando Kesabo. Forse questa era la stanza di vostra madre quando era giovane. È vero, disse egli, chinando lentamente il capo, come era uso fare. Questa è vostra madre, disse Dorotea, che si era voltata a osservare il gruppo di miniature. È simile a quel ritratto minuscolo che mi avete portato. Solo penso che sia migliore. E questa davanti a lei chi è? La sorella maggiore. Erano come voi e vostra sorella le uniche figlie dei loro genitori, che sono appesi al di sopra di loro, vedete? La sorella è carina, disse Celia, sottintendendo che non pensavo lo stesso della madre di Kesabo. Era una novità per la fantasia di Celia il fatto che egli provenisse da una famiglia i cui membri erano stati tutti giovani al loro tempo. Le signore portavano collane. È un volto singolare, disse Dorotea guardando attentamente. Quegli occhi di un grigio profondo piuttosto ravvicinati, il delicato naso irregolare con una specie di increspatura e tutti i riccioli incipriati che pendono all'indietro. Tutto sommato mi pare più singolare che carina. Fra lei e vostra madre non vi è neppure un tratto di famiglia simile. No. E i loro destini non furono simili. Non me ne avete parlato, disse Dorotea. Mia zia contrasse un matrimonio disgraziato. Non l'ho mai vista. Dorotea rimase un po' a fantasticare, ma capì che sarebbe stata una mancanza di tatto chiedere proprio allora delle informazioni che Mr. Casaubon non aveva dato e si voltò verso la finestra ad ammirare la vista. Il sole si era da poco fatto strada fra il grigio e la fila di tigli gettava delle ombre. Non volete che facciamo una passeggiata in giardino ora? Chiese Dorotea. E vorresti vedere la chiesa, vero? Disse Mr. Brooke. È una chiesetta buffa. E il villaggio sta tutto in un guscio di noce. A proposito, ti andrà bene, Dorotea, perché i cottage sono come una fila di ospizi, giardinetti, violaciocche, quel genere di roba. Sì, ve ne prego, disse Dorotea guardando Mr. Casaubon. Desidererei vedere tutto. A proposito dei cottage di Lowy, non gli aveva strappato nulla di più descrittivo dell'espressione che non erano male. Ben presto si trovarono su un sentiero ghiaioso che correva soprattutto fra bordi erbosi e gruppi di alberi. Era la strada più prossima che conduceva alla chiesa, disse Mr. Casaubon. Al cancelletto che era di accesso al cimitero si fermarono, mentre Mr. Casaubon andò nella canonica lì vicino a prendere una chiave. Celia, che si era tenuta un po' indietro, li raggiunse appena vide che Mr. Casaubon se n'era andato e disse con la sua tranquilla voce discontinua, che sembrava sempre smentire il sospetto di una qualche malignità. Lo sai, Dorotea, ho visto qualcuno assai giovane venire avanti per uno dei sentieri. E ti sorprende, Celia? Può darsi che ci sia un giovane giardiniere, sai? Perché no? Disse Mr. Brooke. L'avevo detto a Kesabo che avrebbe dovuto cambiare il giardiniere. No, non un giardiniere, disse Celia, un signore con un taccuino per schizzi. Aveva dei riccioli castano chiari, l'ho visto solo di spalle, ma era assai giovane. Il figlio del curato, magari, disse Mr. Brooke. Ah, riecco Kesabon, e Tucker con lui. Ci presenterà Tucker. Non conoscete ancora Tucker? Mr. Tucker era il curato di mezza età, uno del basso clero, a cui di solito i figli non mancano. Ma dopo le presentazioni, la conversazione non portò ad alcuna domanda sulla sua famiglia e la sorprendente apparizione giovanile venne scordata da tutti, tranne che da Celia. Dentro di sé si rifiutò di credere che i riccioli castano chiari e la figura snella potessero avere un qualsiasi rapporto con Mr. Tucker, che era vecchio e sapeva di muffa, come si sarebbe aspettato dal curato di Mr. Casaubon. Senza dubbio un uomo eccellente che sarebbe andato in paradiso, perché Celia non voleva essere priva di scrupoli, ma aveva gli angoli della bocca così sgradevoli. Celia pensò con una certa malinconia al periodo che avrebbe dovuto trascorrere come damigella d'onore a Lowick, dove il curato probabilmente non aveva dei bambini carini che le potessero piacere, indipendentemente dai principi. Mr. Tucker fu preziosissimo durante la passeggiata e forse Mr. Casaubon non aveva peccato di imprevidenza, poiché il curato fu in grado di rispondere a tutte le domande di Dorotea a proposito degli abitanti del villaggio e degli altri parrocchiani. Egli la assicurò che ognuno stava bene a Lowick e non c'era un bracciante in quei doppi cottage dati in affitto a basso prezzo che non tenesse un maiale, e i giardinetti sul retro erano ben curati. I ragazzini indossavano un'eccellente velluta a coste, le ragazze andavano a servizio fuori di casa e facevano qualche lavoro di paglia intrecciata a domicilio. Niente telai qui, niente dissenzienti. E sebbene la gente fosse portata a risparmio più che alla spiritualità, non c'erano molti vizi. I polli screziati erano così numerosi che Mr. Brooke osservò: "I vostri contadini lasciano un po' d'orzo da spigolare alle donne, vedo. I poveri qui potrebbero avere un pollo in pentola, come il buon re francese soleva augurarsi per ognuno dei suoi sudditi. I francesi mangiano un sacco di polli, polli, pelle e ossa, capite?" "Penso che fosse un desiderio assai indegno da parte vostra", disse Dorotea con aria indignata. "I re sono dei tali mostri che un desiderio simile debba venire considerato una virtù regale. E se augurava loro un pollo, pelle e ossa", disse Celia, "non sarebbe stato carino, ma forse augurava loro di avere dei polli grossi." "Sì, ma la parola è stata tralasciata dal testo e forse è stata subauditam, cioè presente alla mente del re ma non espressa", disse Mr. Casaubon sorridendo e piegando il capo alla volta di Celia, la quale si ritirò subito un po' indietro, perché non sopportava che Mr. Casaubon le sbattesse le palpebre. Sulla via del ritorno Dorotea rimase immersa nel silenzio. Provava una certa delusione, di cui tuttavia si vergognava, perché a Lowick non c'era nulla da fare per lei. E per qualche minuto la sua mente pensò a quanto le sarebbe piaciuto scoprire che la propria casa era situata in una parrocchia in cui ci fosse una parte più abbondante della miseria del mondo, in cui lei avesse potuto avere delle mansioni più attive. Quindi, tornata al futuro, che concretamente l'attendeva, si figurò una dedizione ancora più completa agli scopi di Mr. Casaubon, in cui si attendeva nuovi doveri. Molti di questi si sarebbero potuti rivelare alla consapevolezza superiore da lei raggiunta in quella compagnia. Mr. Tucker ben presto li lasciò, avendo una qualche incombenza ecclesiastica che non gli consentiva di pranzare in casa del pastore, e mentre stavano rientrando nel giardino attraverso il cancelletto, Mr. Casaubon disse: "Sembri un po' triste, Dorotea. Spero che ti sia piaciuto ciò che hai visto."